Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica. Oggi parliamo ancora di bioplastiche. L'Italia infatti è uno dei principali produttori di oggetti in plastiche biodegradabili e compostabili, ma soprattutto è il leader mondiale nella produzione della materia prima, che è uno dei motivi di orgoglio del nostro manifatturiero. Io concludo sempre questa trasmissione in modo provocatorio. Negli ultimi tempi dico: viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio, perché mi piace provocare, perché è assolutamente insopportabile questa mentalità che vorrebbe tutto bio, tutto cucina, tutto cuochi, tutto paesaggio, tutto bellezza. Non se ne può più, e poi non si può pensare di risolvere le sorti dell'economia con queste cose. Però ci sono anche dei discorsi bio che sono seri e che hanno la possibilità di alimentare un'industria vera. Uno di questi sono proprio le bioplastiche, sulle quali ci stiamo soffermando in alcune puntate. Oggi raccontiamo la storia della IPT, che è una delle principali aziende che producono sacchetti in bioplastiche. Sono i sacchetti per la grande distribuzione che non si rompono più. Una volta si rompevano, adesso invece sono robusti e soprattutto che sono biodegradabili e compostabili. La storia sua è interessante non solo perché produce queste cose e quindi è un esponente di questo tipo di industria con ormai 33 milioni di fatturato, ma anche perché nasce dall'industria plastica toscana, che era un'industria classica nelle plastiche, che però stava chiudendo, stava fallendo, anzi era fallita, è stata ricomprata dai propri operai, i quali in un primo momento hanno tentato un rilancio con le plastiche tradizionali e poi hanno preso il volo con le bioplastiche, fino ad arrivare ai circa 33 milioni di fatturato di oggi. Quindi pensate, gli operai dell'azienda fallita, gli operai che sono già a casa, si comprano l'azienda con la formula della cooperativa e la rilanciano con un progetto innovativo. Bellissima storia. Uno di questi operai, ormai sono passati quasi 20 anni, era l'attuale amministratore delegato Graziano Chini, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Insomma, lei è soddisfatto dei risultati raggiunti? Era un operaio, stava a casa, è andato a comprarsi l'azienda, adesso fa l'amministratore delegato, siede su una bella poltrona. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, vogliamo continuare e mantenere lo sviluppo e la crescita dell'azienda. Dire stare su una poltrona non si addice alle nostre ma io la prendo in giornate. Giro perché la vedo, lei ha un modo di fare, anzi molto easy. Sì, cerco di essere, come dire, il più positivo, il più stimolato, nonostante, diciamo, le insidie, nonostante le tensioni quotidiane. Ecco, ma ci racconti com'è andata? Praticamente lei era a casa e voi avete versato tutto quello che avevate in quota capitale. Lei che cosa ha dato come garanzia? Allora, nel 94 l'allora International Plastics italiana andava fallita. È chiaro che ci siamo trovati senza lavoro, eravamo in diversi allora, è chiaro, un momento 78 storico. 78 persone. 78 persone. Era un momento storico completamente diverso da ora. E niente, noi all'epoca ci prefiggiavamo solo l'idea di mantenere l'occupazione, mantenere il presidio produttivo nel nostro territorio, nel Mugello. È chiaro che l'idea nacque per... Voi siete a Borgo San Lorenzo. Sì, a Scarperia, comune di Scarperia, San Piero a Sieve, vicino a Borgo San Lorenzo. L'idea era quella di mantenere una tradizione di filmatori che nel Mugello c'è dall'inizio, diciamo, degli anni 60, da quando nata scoprì il polipropilene. E niente, l'idea era quella, poi però ci volevano i soldi, lei non li aveva e quindi ha dato come garanzia per un prestito alla banca lo stipendio della moglie. Io andai in banca con la busta paga di mia moglie per prendere i 4 milioni necessari, perché non li avevo, per come dire, versarli per costituire il capitale della sociale. Cooperativa. Adesso sì? Ci dobbiamo interrompere per gli avvisi sul traffico e speriamo un po' di pubblicità, perché qui sta da campà, però restate in linea perché questa storia è bellissima. Fabbrica 2.4. Buongiorno, rieccoci in linea dopo il breve stacco. Oggi parliamo della IPT di Borgo San Lorenzo, anzi di Scarperia vicino a Borgo San Lorenzo, che da industria plastica toscana è diventata industria bioplastic technology. Ne stiamo parlando con il suo presidente, che è Graziano Chini, che è un ex operaio che insieme a 77, totale quindi 78 colleghi, si era comprata l'azienda rilevandola dal fallimento e ha fatto un brillante rilancio sulla strada delle bioplastiche. Addirittura ormai fatturano 33 milioni di euro con un 12% di margine di contribuzione, cioè l'equivalente del EBITDA. Ma insomma, voi siete una cooperativa, ma allora gli acquisti, questo succede perché i sacchetti ve li compra la Coop? Le compra la Coop, ma non solo, noi lavoriamo con tutta la grande distribuzione italiana, è chiaro, lavoriamo laddove riusciamo a inserire i nostri prodotti, non solo quindi la Coop Firenze, Unicoop Firenze, quanta parte del vostro fatturato genera? Unicoop Firenze siamo intorno ai 20, al 20%, siamo intorno al 20%. Il resto poi sul abbiamo mercato. Il Conad, esatto, sul mercato il Conad, Esselunga, il Despar, Esselunga, sì? Cioè Caprotti compra i sacchetti da una cooperativa di comunisti, ma questo dopo che è morto o glieli vendevate già prima? No, li vendevamo già prima, fin dal 2011. Non ho capito la domanda. Lei è comunista? Ma perché ci sono ancora i comunisti? Lei crede che ci siano ancora? Però non mi risulta. C'è qualcuno che lo crede? Non mi risulta. Che lo credano ce ne sono tanti probabilmente, però poi di fatto non credo trovi più tanto appeal. Non è criptocomunista che dice così, poi dopo c'hai Santini con Marx? No, diciamo che mi piace molto essere libero, mi piace molto essere, anche l'azienda, anche la IPT è un'azienda molto libera. Dunque noi rilevammo l'azienda con la formula delle workers buyout, è chiaro che l'intervento di Lega Coop all'epoca fu determinante ed è chiaro che noi cerchiamo di mantenere il nostro cammino contando sulle risorse proprie o comunque laddove prendiamo finanziamenti, da dove troviamo finanziamenti, però ci piace, ecco questo mi va di sottolineare, ci piace poi restituirli i soldi, perché non vogliamo essere assolutamente... Perché voi potete finanziarvi raccogliendo capitali sul mercato, come tutte le cooperative, soprattutto cioè sul ci mercato, sono tipo libretti. Sì. Ma non che tanto una forma che non... No, attraverso finanziamenti che troviamo sul mercato del credito, laddove troviamo le condizioni migliori, allora comunque questa vostra rinascita è stata possibile grazie all'esistenza della forma giuridica cooperativa in Italia. Perché se aveste dovuto costituire una società di capitali non sarebbe stato possibile. Sarebbe stato assolutamente impossibile. Ma allora come ora del resto non abbiamo noi pro capite delle risorse tali da poter fare investimenti di quella. Questo va detto, la forma cooperativa consente la nascita di attività economiche che altrimenti non sarebbero possibili. Comunque non vorrei allontanarmi troppo dal tema delle bioplastiche, che sono un orgoglio della manifattura italiana. L'Italia è leader mondiale nelle bioplastiche. A me personalmente piace di più l'acciaio, però tocca anche parlare delle bioplastiche. Ecco una scheda. Materbi è il nome commerciale di un tipo di bioplastica, brevettato e commercializzato da Novamont, l'azienda chimica fondata a Novara da Katia Bastioli insieme ad altri ricercatori e manager provenienti dalla vecchia Montedison. Il Materbi, realizzato a partire da amido di mais, viene venduto in granuli ed è lavorabile in modo simile alle altre materie plastiche, anche per quanto riguarda la colorazione e la sterilizzazione. La sua invenzione e produzione è alla base del primato manifatturiero mondiale che l'Italia vanta nelle bioplastiche. Novamont produce solo la materia prima. Viene lavorata e trasformata in prodotti finiti da una filiera di aziende specializzate che poi li vendono. Il Mater B, a differenza di altre materie plastiche, è biodegradabile. Il suo processo di biodegradazione, svolto da microorganismi, genera acqua, anidride carbonica e metano. Il Mater B viene prodotto nelle tre fabbriche di Terni, Adria, in provincia di Roma, e Frosinone. Il Mater B, grazie alle sue caratteristiche della biodegradabilità e compostabilità e all'alto contenuto di materie prime rinnovabili, consente almeno tre vantaggi. Il primo è di ottimizzare la gestione dei rifiuti organici. Il secondo è di ridurre l'impatto ambientale. Il terzo è di contribuire allo sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi lungo tutto il ciclo produzione, consumo, smaltimento. Per esempio, i prodotti in Mater B per il packaging, che sono soprattutto gli shopper utilizzati da negozi e grande distribuzione, possono essere smaltiti nella raccolta differenziata dell'umido e avviati al riciclo organico negli impianti di compostaggio per diventare fertile compost. Lo stesso avviene per i teli destinati alla protezione delle colture agricole ed orticole, che si trasformano in fertile compost. Il Mater B ha conosciuto una forte diffusione a partire da quando, nel 2006, il governo Prodi ha disposto il divieto, nel giro di 3 anni, dell'uso di shopper in plastica, che erano uno dei più gravi e pericolosi fattori di inquinamento. Allora, siamo ancora qui a parlare con Graziano Chini di IPT, che nell'anno scorso ha prodotto 7.000 tonnellate di sacchetti in bioclastiche, con linee tutte prodotte e realizzate da loro stessi. Voi adesso quanto sono spessi i sacchetti che ci sono sul mercato? I sacchetti vanno da uno spessore di 8-9 micron fino ai 24-25 per i formati. Quindi la media è 12 micron, ma mi diceva che voi l'avete ridotta a 10. Noi stiamo in produzione ormai con il 10 micron ormai da diverso tempo, da alcuni anni, e continuiamo con questo tipo, diciamo, di sviluppo, con questo tipo di tecnologia. Perché che ci più il film è sottile, più si risparmia la materia prima. È certo, il valore aggiunto che troviamo nel risparmio, nella trasformazione di questi prodotti è dovuto al... Lei pensi che nell'economia di un sacchetto il 70% è materia prima? Eh beh, certo. Poi, ma come mai all'inizio si rompevano tutti e adesso si rompono un po' di meno? E questo evidentemente grazie alla ricerca di Novamont. Noi siamo licenziatari Novamont ed è evidente che loro hanno messo tanto del loro know-how per migliorare il biopolimero. Sì, ma senta, ma voi adesso state anche pensando all'esportazione, siete anche presenti sul mercato francese, no? Dal gennaio scorso il mercato francese si è aperto per quanto riguarda le referenze della frutta e verdura ed è da dicembre-gennaio che abbiamo iniziato con la Francia. È un mercato molto importante, diamo un peso enorme ed è per questo che stiamo approntando degli investimenti, degli interventi proprio per accrescere, per incrementare queste linee di prodotto. Certo, ma quindi lei come si vede l'azienda fra qualche anno? Come vorrebbe che fosse? Un'azienda al passo con i tempi, un'azienda che ha anche bisogno di un restyling abbastanza profondo. Veniamo da una storia non tanto sofferta quanto intensa, molto articolata, ed è evidente che... Una storia da film, gli operai che si ricomprano la fabbrica e soprattutto poi che cavalcano l'innovazione. E qui siamo a uno dei nostri credo, che bisogna evolvere, bisogna innovare e non bisogna mai piangersi addosso, vero Chini? Sicuramente vero, impossibile. Adesso però purtroppo dobbiamo chiudere, saluto e ringrazio Graziano Chini. Grazie a lei, grazie a tutti. E anche se oggi abbiamo parlato di bioplastiche, io dico viva le fabbriche, viva l'industria, viva i robot, viva l'acciaio. Buona domenica.